Per emettere questo giudizio su Elstir, Madame Verdurin non aveva aspettato la rottura con lui, né di non amare più la sua pittura. Il fatto è che anche quando faceva parte del piccolo gruppo, capitava che Elstir passasse giornate intere con qualche donna che, a torto o a ragione, Madame Verdurin riteneva un'oca, il che, a suo avviso, non era da uomo intelligente. «No», proseguì in tono equanime, «credo che lui e sua moglie siano proprio fatti l'uno per l'altra. Dio sa che non conosco su questa terra creatura più noiosa e che diventerei matta se fossi costretta a passare 2 ore con lei. Ma mi dicono che lui la trovi molto intelligente. La verità, e bisogna ammetterlo, è che il nostro Tish era più che altro straordinariamente stupido. L'ho visto a bocca aperta davanti a gente che non potete neanche immaginare, autentiche imbecilli che non avremmo mai tollerate nel nostro piccolo clan. Ebbene, lui mandava loro delle lettere, discuteva con loro il nostro Elstir. Ciò non toglie che avesse dei lati incantevoli, sì, incantevoli e deliziosamente assurdi, naturalmente. Madame Verdurin era infatti persuasa che gli uomini veramente notevoli commettano 1000 follie. Idea falsa, nella quale tuttavia c'è qualcosa di vero. Certo, le follie della gente sono insopportabili, ma uno squilibrio che si scopre solo alla lunga è la conseguenza dell'intrusione in un cervello umano di delicatezze per le quali non è abitualmente predisposto. Così, le stranezze delle persone affascinanti esasperano. Ma ci sono ben poche persone affascinanti che non siano peraltro strane. «Venite, posso mostrarvi subito i suoi fiori», mi disse Madame Verdurin, vedendo il marito farle segno che ci si poteva alzare da tavola, e riprese il braccio del signor di Cambremer. Il signor Verdurin, non appena lasciata Madame de Cambremer, volle scusarsene con il signor di Charlus ed esporgli le sue ragioni, soprattutto per il piacere di intrattenersi su queste sfumature mondane con un uomo titolato, in momentanea posizione di inferiorità rispetto a coloro che gli assegnavano il posto cui ritenevano avesse diritto. Ma innanzitutto tenne a mostrare a Charlus che lo stimava troppo intellettualmente per pensare che prestasse attenzione a simili bagatelle. «Scusatemi se vi parlo di queste inezie», cominciò, «dato che mi immagino quanto poco ne facciate conto. Chi ha una mentalità borghese ci bada, ma gli altri, gli artisti, le persone che lo sono veramente se ne infischiano. Ora, sin dalle prime parole che abbiamo scambiate, ho capito che voi siete di quelli». Il signor di Charlus, che dava a questa locuzione un senso assai diverso, ebbe un sussulto. Dopo le strizzate d'occhio del dottore, l'ingiuriosa franchezza del padrone di casa gli toglieva il respiro. «Non protestate, caro signore, voi lo siete. È chiaro come il giorno», riprese Verdurin. «Notate che non so se esercitate questa o quell'arte, ma non è necessario e non sempre è sufficiente. Deschambre, che è da poco scomparso, suonava perfettamente con la più robusta tecnica, ma non lo era. Si sentiva subito che non lo era. Brichot non lo è. Morel lo è. Mia moglie lo è. Sento che voi lo siete». «Cosa stavate per dirmi?» lo interruppe Charlus, che cominciava a tranquillizzarsi su ciò cui Verdurin intendeva alludere, ma preferiva che gridasse un po' meno quelle parole a doppio senso. «Vi abbiamo messo soltanto a sinistra», rispose il signor Verdurin. Charlus, con un sorriso comprensivo, bonario e insolente, replicò: «Ma via, non ha nessuna importanza qui», e fece una risatina che gli era particolare, un modo di ridere che gli veniva probabilmente da qualche nonna bavarese o lorenese, cui era stato trasmesso a fatto identico da un'antenata, così che risuonava tale e quale immutato da un discreto numero di secoli in alcune piccole vecchie corti d'Europa, e si gustava la sua qualità preziosa come quella di certi strumenti antichi divenuti rarissimi. «Ci sono momenti in cui per dipingere compiutamente qualcuno bisognerebbe che alla descrizione s'aggiungesse l'imitazione fonetica. e quella del personaggio incarnato dal signor di Charlus rischia di essere incompleta per mancanza di quella risatina così fine, così leggera, allo stesso modo che certe opere di Bach non sono mai rese esattamente perché le orchestre mancano di quelle piccole trombe dal suono così particolare, per le quali l'autore ha scritto questa o quella parte. «Ma», spiegò Verduran piccato, «è intenzionale. Non do la minima importanza ai titoli nobiliari», aggiunse, con il sorriso sprezzante che ho visto tante persone riservare, al contrario di mia nonna e di mia madre, a tutto ciò che non possiedono, di fronte ad altri che in tal modo, pensano, non potranno servirsene come arma di superiorità su di loro. Ma insomma, dal momento che c'era, appunto, il signor di Cambremè, che è marchese, mentre voi non siete che barone, permettete, ribatté con alterigia il signor di Charlus allo stupefatto signor Verduran, sono anche duca di Brabante, donzello di Montargis, principe di Oléron, di Carency, di Viareggio e de Dune. Del resto, non ha davvero importanza. Non tormentatevi, aggiunse recuperando il suo fine sorriso, che si riverberò sulle seguenti ultime parole. Ho visto subito che non c'eravate abituati. Madame Verduran mi raggiunse per mostrarmi i fiori di Elstir. Se il fatto, divenutomi da molto tempo così indifferente, di pranzare fuori, mi aveva invece, sotto la forma che lo rinnovava completamente d'un viaggio lungo la costa seguito da un'ascesa in carrozza sino a 200 metri sul livello del mare, procurato una sorta d'ebbrezza, questa non s'era affatto dissipata alla Raspellière. «Ecco, guardate un po' qua», mi disse la padrona, mostrandomi delle grandi e magnifiche rose di Elstir, il cui smagliante scarlatto e il cui rigonfio candore risaltavano tuttavia con un rilievo un po' troppo cremoso sulla giardiniera dove erano posate. «Credete che ce la farebbe ancora a dare una simile zampata? È piuttosto forte, non vi pare? E poi è bello come materia, sarebbe divertente da palpare. Non vi so dire com'era divertente vedergliele dipingere. Si sentiva quanto l'interessasse cercare quell'effetto». E lo sguardo della padrona si fissò, sognante, su quel dono dell'artista in cui era racchiusa, oltre al suo grande talento, la loro lunga amicizia, viva ormai, solo in questi ricordi che lui gliene aveva lasciati. Dietro i fiori che un tempo Elstir aveva colti per lei, le sembrava di rivedere la bella mano che li aveva dipinti in una mattinata, nella loro freschezza, tanto che le une sulla tavola, l'altro appoggiato a una poltrona della sala da pranzo, erano potuti apparire faccia a faccia per la colazione della padrona, le rose ancora vive e il loro ritratto parzialmente fedele. Solo parzialmente, perché Elstir non poteva guardare un fiore senza trapiantarlo subito in quel giardino interiore dove sempre siamo costretti a restare. Aveva mostrato in quell'acquerello l'apparizione delle rose che aveva viste e che senza di lui non si sarebbero mai conosciute. Così che si può dire che fosse una nuova varietà di cui il pittore, come un ingegnoso floricoltore, aveva arricchito la famiglia delle rose. Dal giorno in cui ha lasciato la piccola cerchia, è stato un uomo finito. Pare che i miei pranzi gli facessero perdere tempo, che io nuocessi allo sviluppo del suo genio, disse Madame Verduran in tono ironico. Come se frequentare una donna come me potesse non riuscire a salutare a un artista, esclamò con un moto d'orgoglio. Vicinissimo a noi, il signor di Cambremer, che era già seduto, abbozzò, vedendo il signor di Charlus in piedi, il gesto d'alzarsi e di cedergli la sedia. Questa offerta corrispondeva forse nel pensiero del marchese solo a un'intenzione di vaga cortesia. Charlus preferì attribuirle il significato d'un omaggio che il semplice gentiluomo sapeva di dover tributare a un principe e gli parve di non poter stabilire il suo diritto di precedenza meglio che rinunciando ad esso. Esclamò dunque: «Ma cosa fate? Ve ne prego, che diamine!» Il tono astutamente veemente della protesta aveva già qualcosa di molto germant, che si palesò ancor meglio nel gesto imperioso, inutile e familiare con cui Charlus, posò entrambe le mani, come per costringerlo a risedersi, sulle spalle del signor di Cambremer, che non s'era alzato. «Su via, mio caro», insistette il barone, «ci mancherebbe solo questo, non c'è ragione. Ai nostri tempi non lo si fa che per i principi del sangue». Non commossi né i Cambremer né Madame Verdurin con il mio entusiasmo per la loro casa. Infatti, rimanevo freddo davanti alle bellezze che essi mi segnalavano e m'esaltavo per confuse reminiscenze. A volte, persino, confessavo loro la mia delusione, trovando qualcosa non conforme a ciò che il suo nome m'aveva fatto immaginare. Suscitai l'indignazione di Madame de Cambremer dicendole d'aver creduto che fosse più campagna. In compenso, indugiai estatico ad aspirare uno spiffero che filtrava dalla porta. «A quanto pare vi piacciono le correnti d'aria», mi dissero. Il mio elogio del pezzo di seta verde che nascondeva un metro rotto non ebbe maggior successo. «Ma che orrore!» esclamò la marchesa. Il colmo fu quando dissi: «La gioia più grande l'ho provata al momento dell'arrivo. Sentendo risuonare i miei passi nella galleria, mi è parso d'essere entrato nell'ufficio di non so quale sindaco di villaggio, con appesa la mappa del distretto». Questa volta, Madame de Cambremer mi voltò decisamente le spalle. «Non trovate che nell'insieme non l'abbiano poi sistemata tanto male?» le chiese il marito con la stessa impietosita sollecitudine con cui le avrebbe chiesto come avesse sopportato una mesta cerimonia. «Ci sono delle belle cose». «Ma poiché la malevolenza, quando le regole fisse d'un gusto sicuro, non le impongono equanimi confini, trova tutto da criticare nella figura o nella casa di chi ci ha soppiantati, sì, ma non sono al posto giusto e dopo tutto sono davvero tanto belle». «Avete notato», osservò il signor di Cambremer, con malinconia temperata dalla fermezza, «ci sono tele di Jouy che mostrano la corda in questo salotto, ci sono cose tutte logore, e quella stoffa a grosse rose come il copriletto di una contadina», aggiunse Madame de Cambremer, la cui cultura del tutto posticcia s'applicava esclusivamente alla filosofia idealista, alla pittura impressionista e alla musica di Debussy. «E per non appellarsi soltanto al lusso ma anche al gusto, e hanno messo i paraspifferi alle finestre. Che mancanza di stile! Cosa volete farci? È gente che non sa. Dove mai avrebbero imparato? Devono essere dei grossi commercianti a riposo. Per essere quel che sono, in fondo se la cavano. I candelieri mi sono parsi belli», disse il marchese, senza che si potesse capire perché facesse questa eccezione, così come ogni volta che si parlava d'una chiesa, fosse la cattedrale di Chartres, di Reims, di Amiens o la chiesa di Balbec, ciò che s'affrettava inevitabilmente a citare come mirabile era la cassa dell'organo, il pulpito e le opere di misericordia. «Quanto al giardino, meglio non parlarne», disse Madame de Cambremer. «È un massacro, quei viali tutti di sghimbescio». Approfittai del momento in cui Madame Verdurin serviva il caffè per dare un'occhiata alla lettera consegnatami dal signor di Cambremer e con la quale sua madre mi invitava a pranzo. Con un niente d'inchiostro, la scrittura traduceva un'individualità ormai riconoscibile per me fra ogni altra, senza che ci fosse bisogno di ricorrere all'ipotesi di penne particolari, più di quanto colori rari e fabbricati misteriosamente siano necessari a un pittore per esprimere la sua visione originale. Persino un paralitico, affetto da agrafia in seguito a un attacco e ridotto a guardare i caratteri come un disegno senza poterli leggere, avrebbe capito che Madame de Cambremer apparteneva a una vecchia famiglia in cui il culto entusiastico della letteratura e dell'arte aveva dato un po' d'aria alle tradizioni aristocratiche. Avrebbe anche indovinato in quali anni all'incirca la marchesa avesse imparato simultaneamente a scrivere e a suonare Chopin. Era l'epoca in cui le persone beneducate osservavano la regola d'essere cortesi e quella cosiddetta dei tre aggettivi. Madame de Cambremer le combinava entrambe. Un aggettivo elogiativo non le bastava, lo faceva seguire dopo un trattino da un secondo, poi dopo un secondo trattino da un terzo. Ma quel che le era peculiare è che, in contrasto con lo scopo sociale e letterario da lei perseguito, la successione dei tre attributi presentava nei biglietti di Madame de Cambremer l'aspetto non d'una progressione, ma di un diminuendo. In quella prima lettera mi diceva che aveva visto Saint-Loup e aveva più che mai apprezzato le sue qualità uniche, rare, reali, che sarebbe tornato con un amico, precisamente quello che era innamorato della nuora, e che se io fossi voluto andare, con loro o senza, a pranzo a Féterne, lei ne sarebbe stata estasiata, felice, contenta. Forse perché il desiderio d'essere cortese non era uguagliato in lei dalla fertilità dell'immaginazione e dalla ricchezza del vocabolario, la nobile signora, ben decisa a lanciare tre esclamazioni, non aveva la forza di esprimere, nella seconda e nella terza, più di un'eco indebolita della prima. Se solo ci fosse stato un quarto aggettivo, della gentilezza iniziale non sarebbe rimasto più nulla. Inoltre, per una certa semplicità raffinata, che doveva aver prodotto una notevole impressione nella famiglia e persino nella cerchia delle conoscenze, Madame de Cambremer aveva preso l'abitudine di sostituire la parola sincero, che poteva finire con l'assumere un tono di falsità, con la parola vero. E per mostrare che si trattava realmente di qualcosa di sincero, infrangeva l'ordine tradizionale, che avrebbe voluto vero prima del sostantivo e lo piazzava coraggiosamente dopo. Le sue lettere terminavano così, con «Credete alla mia amicizia vera», «Credete alla mia simpatia vera». Purtroppo il suo linguaggio era a tal punto diventato formulare che questa affettazione di franchezza dava un'impressione di cortesia fittizia più delle vecchie formule, al cui senso non si fa più caso.